Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Salva Danaio. Oggi è venerdì, parliamo di italiani e risparmio. Torniamo a parlare anche di fondi comuni di investimento, azionari, obbligazionari, di diritto italiano, estero vestiti, benchmark non raggiunti, gli oneri, i costi, la revisione della tassazione, l'armonizzazione europea. Per un tema o per un altro, da anni sono al centro dell'attenzione del mondo del risparmio. I fondi di investimento lo sono stati in particolare qualche anno fa nella fase più forte della recente crisi finanziaria, quando i risparmiatori si sono dati alla fuga dai fondi, disinvestendo pesantemente. Ora l'aria a quanto pare sta di nuovo cambiando. Nel 2010 si è già visto un piccolo segnale, dato che l'anno è stato archiviato con 1 miliardo di euro di raccolta positiva. Un altro segnale positivo è arrivato con i dati diffusi 2 giorni fa e relativi all'andamento del primo trimestre, che ha manifestato un saldo positivo per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Partendo da questo dato cercheremo di capire che cosa implica questa tendenza, come si stanno riposizionando le scelte dei risparmiatori e soprattutto quali sono le sfide del risparmio, tema che interessa in misura rilevantissima il nostro paese, dato che ha gli stock di ricchezza privati, di ricchezza privata più elevati al mondo. Oggi abbiamo un'intervista a tutto campo con il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco, con il quale faremo 2 chiacchiere, spero che lo farà volentieri con noi, anche sui temi economici internazionali che continuano ad essere sullo sfondo e che condizionano le scelte degli investitori. Dottor Siniscalco, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, buongiorno Deborah. Allora, naturalmente microfoni aperti come sempre agli ascoltatori, che possono chiamarci all'800240024. Stimoleremo stamattina il professor Siniscalco anche con 2 colleghi giornalisti che sentiremo tra poco, ma naturalmente gli ascoltatori ci possono anche scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Però prima di tutto la borsa, diamo un'occhiata a quello che sta succedendo oggi sui listini finanziari. La settimana si avvia a chiudere, a meno che non ci saranno delle sorprese nel pomeriggio con l'apertura di Wall Street. Oggi, dicevo appunto, la chiusura di settimana sembra positiva per i listini del vecchio continente, trainati soprattutto dal settore bancario, perché secondo il Financial Times potrebbero essere rivisti in una direzione di alleggerimento alcuni parametri di Basilea 3 che richiedono appunto un rafforzamento patrimoniale per gli istituti bancari europei, e questa prospettiva sta incoraggiando notevolmente gli acquisti sul settore in tutta Europa, soprattutto sui titoli francesi. Oggi in avanzata netta abbiamo Crédit Agricole più 4%, Société Générale più 1,88%, BNP Paribas più 1,87%. Complessivamente il listino francese guadagna lo 0,8%, più tranquilla la seduta sulla piazza tedesca, Francoforte più 0,32%, Londra più 0,83%, bene anche Londra, Milano a metà strada guadagna lo 0,64% sul FTSE MIB. I migliori titoli di Milano in questo momento: Mediolanum più 1,81%, Intesa sta continuando l'aumento di capitale per la banca, per Intesa San Paolo più 1,37%, bene anche Piazzetta Cuccia, Mediobanca più 1,35%, Unicredit più 1,31%, Fiat più 1,27%. È stata la settimana eccezionale per i titoli del Lingotto. Il gruppo ha chiuso la partita che era stata aperta dopo l'acquisizione di Chrysler con il governo americano e canadese, quindi restituito integralmente il prestito dei due governi per i titoli. Appunto, è stata una settimana di brindisi letteralmente in borsa, con forti acquisti da parte degli operatori. In calo invece l'automatica perde l'1,68%, Azimut meno 1, Autogrill meno 0,9, Impregilo meno 0,8%. Giornata molto movimentata sul mercato valutario, con il franco svizzero che ha toccato nuovi record questa mattina sia sull'euro che sul dollaro, mentre il rapporto euro-dollaro è attestato adesso a 1,42,13. Oggi a Salva Danaio Domenico Siniscalco, presidente di Assogestioni. Come sempre nella nostra scheda di apertura vi ricordiamo un po' quali sono i numeri in questo momento dell'industria del risparmio gestito. Dopo alcuni mesi negativi, il risparmio gestito torna a registrare dati in crescita e lo fa grazie alla buona performance del comparto assicurativo: meno fondi e più polizze. Questa è la fotografia dell'ultimo trimestre del settore scattata da Assogestioni. In particolare, nei primi 3 mesi dell'anno in corso, la raccolta è stata positiva per 1,4 miliardi di euro e sul risultato continua ad impattare positivamente il ramo assicurativo. Ma anche le gestioni patrimoniali non deludono. Male invece i fondi, che proseguono nel trend negativo. Nello specifico, le gestioni di portafoglio attestano una raccolta a 4 miliardi, con deflussi per 2 miliardi di euro, mentre il saldo per i fondi è negativo, in quanto la raccolta positiva dei comparti di diritto estero non è riuscita a compensare il rosso dei prodotti di diritto italiano, che hanno registrato deflussi per 3,17 miliardi di euro. Ma a fornire un nuovo impulso proprio a questi ultimi dovrebbe essere la riforma della gestione del risparmio varata di recente, che equipara i fondi di diritto italiano a quelli esteri. A partire dal prossimo 1 luglio, infatti, si passerà dalla tassazione del maturato in capo ai fondi alla tassazione del realizzato in capo ai sottoscrittori, con una aliquota del 12,5% solo al momento della liquidazione della quota del fondo. Una norma che dovrebbe far tornare appeal sui prodotti italiani da anni in rosso e tra i peggiori in Europa. 800 24 0024, numero verde che vi permette di intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Io vedo già dei messaggi da parte peraltro di alcuni promotori finanziari che ci chiedono qualche commento e qualche delucidazione relativamente alla tassazione, alle novità sulla tassazione. Poi magari, professor Siniscalco, ci andiamo nella seconda parte della trasmissione. L'altra modalità per interagire con noi è il nostro indirizzo di posta, salvadanaio@radio24.it. Professore, allora, un commento subito a caldo con i dati sulla mappa trimestrale del risparmio gestito che avete diffuso proprio due giorni fa. Un saldo positivo per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il 2010 già si era chiuso benino, un micro segnale rispetto all'emorragia della raccolta dei fondi degli ultimi anni. Ci crede davvero in questo segnale? È un'inversione di tendenza? Di nuovo buongiorno a tutti. Direi di sì, anche se è presto per sbilanciarsi sui grandi trend. Sicuramente una serie di dati che erano stati in continuo peggioramento vedono un'inversione per il banale motivo che adesso sono in miglioramento. Perché possiamo dire questo? Perché la mappa trimestrale, che diventerà anche il dato mensile a partire da quest'estate, non guarda solo i fondi, come si era fatto fino adesso, ma guarda invece anche le gestioni di portafoglio, i fondi esteri, i fondi italiani, cioè da un quadro complessivo di quel trilione, di quei 1.000 miliardi di euro che sono gestiti, e non solo il quadro parziale sui fondi, che invece era effettivamente in continuo peggioramento. Cosa significa questo? Che non siamo in una fase di declino o di crisi, come molti avevano forse frettolosamente sentenziato, ma che sta cambiando la struttura degli impieghi del risparmio da parte dei nostri cittadini, e orientandosi un po' meno verso il prodotto fondi e un po' più verso i prodotti assicurativi che hanno natura previdenziale. Quindi c'è un cambiamento strutturale. Perché, professor Siniscalco, la mappa trimestrale diventerà mensile? Beh, perché noi abbiamo, come assogestioni, lavorato per tutto lo scorso anno per cercare di produrre dati maggiormente significativi di quelli soltanto mirati sui fondi, i quali appunto potevano essere prodotti con maggiore facilità, ma davano un quadro parziale. Crediamo che questo quadro, che continuerà ovviamente a disaggregare fondi italiani al loro interno, ma considererà anche, a differenza di prima, le gestioni di portafoglio e i fondi esteri in dettaglio, dia un quadro appunto più significativo perché più completo. Tenga conto che i fondi sono la metà del tutto. Ci dà un quadro di lettura un po' più dettagliato, più approfondito rispetto a questo cambiamento strutturale che lei sta notando nelle scelte delle famiglie italiane? Sì, grazie di questa domanda che è molto importante. Non entro nei numeri dettagliati che avete detto con grande precisione nella scheda, ma mi soffermo soltanto su questa grande tendenza. Che cosa vuol dire? In questi anni, dal 1992 all'anno scorso, abbiamo progressivamente riformato il sistema pubblico delle pensioni. Un sistema che era esplosivo e che invece è stato progressivamente riportato in linea. Certamente per riportare in linea le persone pubbliche le si riduce in qualche modo, parlo del futuro, parlo dei giovani che si affacciano oggi sul mercato del lavoro o quelli che hanno 30 o 40 anni. Lo so, li stiamo tormentando abbastanza purtroppo con questo problema, però bisogna… D'altro canto lo dico… Da ex ministro era meglio senz'altro riformare questo settore che rischiare poi di renderlo insolvente, quello era il rischio. Invece adesso l'abbiamo messo in piena sicurezza. Certo che quanto più è sostenibile il sistema di pensioni pubbliche per lo Stato, tanto più è insufficiente per le famiglie, cioè si prendono pensioni più magre, detto in parole povere, a parità dei contributi. Ecco allora che le famiglie si stanno in maniera del tutto razionale orientando verso dei prodotti assicurativi che complementano la pensione pubblica con delle pensioni di tipo privato, con delle polizze di tipo privato. Io credo che questa sarà una tendenza inarrestabile, perché la chiave è proprio nel risparmio di lungo periodo. Sulla quale tra l'altro so che lei ha un'idea molto precisa per poterla aiutare ulteriormente. Le leggo, professor Siniscalco, una provocazione che ci manda un ascoltatore al 349-238-6666, andando proprio anche a leggere un po' più nel dettaglio questo orientamento strutturale che il mondo del risparmio ha in questo momento, secondo i numeri che abbiamo fornito all'inizio. Roby dice: male i fondi, bene le gestioni patrimoniali, vuol dire che i ricchi sono sempre più ricchi e la classe media è sempre più condizionata dalla crisi. Concorda con questo punto di vista? Beh, sicuramente la classe media, purtroppo, e me ne dolgo, è stata molto schiacciata in questi anni di crisi, sia appunto dal crollo dei corsi di borsa e finanziari dal 2008 in avanti, ma anche e soprattutto dalla concorrenza della classe media dei paesi emergenti, dell'Asia principalmente. Quindi questa classe media è sempre meno media, se vogliamo. Quindi in questo purtroppo ha ragione. Non associo questo giudizio al fatto che si esca dai fondi e si vada nelle polizze. Questo francamente mi sembra una scelta di portafoglio che i risparmiatori fanno a parità di ricchezza. Allora, la tendenza è quella dunque di cercare sicurezza, protezione, soprattutto di mettere al riparo il proprio futuro previdenziale. È terminata, professor Siniscalco, un'ultima domanda prima di andare alla nostra prima pausa, quella tendenza che le banche hanno avuto in questi anni di crisi e che abbiamo spesso analizzato, attribuendo a questa tendenza e a questa volontà la responsabilità anche della crisi dei fondi comuni di investimento. Le banche per lungo tempo, per fare raccolta, hanno preferito collocare presso la propria clientela un determinato tipo di prodotti, polizze, obbligazioni, appunto, piuttosto che i fondi di investimento. Le banche ci stanno ripensando? Ma sicuramente le banche hanno meno bisogno di liquidità, di quel tipo di raccolta. Non credo che sia neanche nel loro interesse quello di arbitrare tra fondi e depositi normalmente, perché poi io credo che il sistema finanziario nel suo complesso, e ci credo veramente, esce dalla crisi se mette il cliente al centro, non se mette se stesso al centro. La nostra sfida è mettere il cliente al centro della nostra attenzione e servirlo nel modo migliore. Allora, noi ci fermiamo, adesso abbiamo la pubblicità, il meteo e poi riprendiamo la nostra intervista con Domenico Siniscalco, presidente di Assogestioni. Sentiremo le domande di alcuni colleghi giornalisti, fra un po' ci collegheremo con Giuditta Marvelli di Corriere Economia e poi con Lionello Cadorin, direttore del nuovo mensile F. A tra pochissimo. Oggi a Salvadanaio di nuovo ben trovati da Deborah Rosciani, abbiamo un'intervista a tutto campo con il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco, il professor Siniscalco, ma ricorderete in molti tutta la sua passata esperienza anche in qualità di ministro del tesoro fra il 2004 e il 2005, è stato vicepresidente di Morgan Stanley International, country head per l'Italia del colosso bancario statunitense. Stiamo parlando sia dell'industria del risparmio gestito, di qual è la tendenza che si sta manifestando nelle scelte dei risparmiatori, ma soprattutto vorremmo parlare a questo punto anche delle sfide del risparmio e, lo dicevamo in apertura, è un tema che interessa notevolmente il nostro paese, che ha uno degli stock di ricchezza privata più elevati al mondo. Professor Siniscalco, peraltro nei giorni scorsi l'Istat ha fotografato il nostro paese in maniera così non troppo rasserenante, perché ha parlato di un paese che è la Cenerentola d'Europa, un paese che arranca, che stenta ad uscire dalla crisi, e le famiglie, secondo quanto individuato nel rapporto 2010 dell'Istituto di Statistica, hanno usato i risparmi per fronteggiare le spese, quindi per salvaguardare anche il proprio livello dei consumi, in qualche maniera anche la propria qualità di vita, hanno avviato una progressiva erosione del tasso di risparmio, sceso per la prima volta al di sotto di quello delle altre grandi economie dell'Unione Monetaria. Stiamo perdendo questo primato di formiche d'Europa? Ma credo di no. Guardi, il dato sulla ricchezza delle famiglie più alta d'Europa, è più alta del G7 addirittura, è un dato che si riferisce alla consistenza, allo stock, e difatti è 8 volte il prodotto interno lordo. Il dato è compreso ovviamente negli immobili, che sono un'importante forma di risparmio. Il dato dell'Istat invece è il flusso, quanto gli italiani accantonano ogni anno, risparmiano ogni anno. Questo dato naturalmente va giù nei periodi di crisi e sarei molto preoccupato se non andasse giù. È andato giù, come lei ha detto, perché alcuni hanno in questo modo mantenuto gli standard di vita in un calo che ritenevano temporaneo, penso tutti quelli che hanno che solo a cassa integrazione perso il lavoro, sono comunque andati in difficoltà in quanto lavoratori autonomi o piccoli imprenditori. Poi si è eroso perché gli imprenditori stessi di imprese familiari hanno messo i soldi in azienda anziché risparmiarli e così via. Mano a mano che la congiuntura migliora, seppure con dei profondi cambiamenti strutturali sta migliorando, questo tasso pian piano tornerà a salire, tornerà ai livelli, non dico precedenti, ma senz'altro livelli più alti degli attuali. Però non confondiamo lo stock col flusso. Allora, tra le varie interviste recenti che il professor Siniscalco ha rilasciato, ce n'era una che ho ritrovato sul Corriere Economia di inizio aprile, nella quale enfatizzava come occorra mettere risparmi al centro della politica economica ed agire con tutte le leve fiscali e regolamentari per farlo comunicare con il mercato. Anche da questo presupposto parte una recente proposta che in un'audizione alla Camera il professor Siniscalco ha fatto su questa proposta, che conosce molto bene Giuditta Marvelli, collega di Corriere Economia, che saluto. Giuditta, buongiorno. Buongiorno. C'è proprio una domanda appunto di Giuditta. Ti lascio il microfono. Io vorrei che lei spiegasse in poche parole questa proposta e che ci potesse dire anche in che modo questo allungamento della possibilità di investire sui fondi con un premio fiscale potrebbe aiutare le famiglie italiane ad essere più interessate all'investimento di lungo periodo in prodotti come i fondi e l'universo del risparmio gestito. Grazie a Giuditta Marvelli. La risintetizzo io, la proposta di Domenico Siniscalco: incentivi fiscali per piani di investimento individuali a lungo termine. So che in Francia si fa qualcosa del genere. Professor Siniscalco, come vedrebbe questo modello italiano, esattamente che cosa ha in mente? Sì, si fa anche in America e si fa anche in Inghilterra ed è veramente la nuova frontiera del risparmio. Torniamo al discorso di prima, ci sono bisogno di forme di previdenza complementare rispetto alla previdenza pubblica. Una sono i fondi pensione, che però hanno la loro rigidità nell'utilizzo e sono anche penalizzati fiscalmente da noi, ma non è che tu puoi ritirare e rimettere in un piano, in un fondo pensione come vuoi, e l'altra è quella di cui stiamo parlando. Tutti noi teniamo dei risparmi, li teniamo magari per una vita in impieghi a breve, io per primo, conti in banca e altro. L'idea qui è di dare uno sgravio fiscale al fatto di mantenere, seppure liberissimamente per quello che riguarda l'utilizzo, il prelievo e così via, di dare un aiuto fiscale a chi detiene questi risparmi per un periodo lungo, diciamo di 5 con un premio e poi di 10 anni con un premio ancora superiore. Si creano così dei conti previdenziali o di risparmio di lungo periodo individuali, cioè della persona, non dei fondi quindi, ma dei conti, i quali hanno questo trattamento. Attenzione, questo non solo aiuta il risparmiatore con lo sgravio, ma aiuta molto anche gli intermediari finanziari che vedono in qualche modo consolidato i depositi che si ricevono e amministrano. Ma mi scusi, anche un fondo di investimento ha un'ottica di lungo periodo, così come anche una polizza assicurativa nella quale si accantona risparmio anche a fini previdenziali, perché non agire lì di nuovo fiscalmente rendendoli ancora più attraenti per i piccoli risparmiatori? Perché agire sul conto corrente, come lei dice, sul conto di deposito, su un risparmio quindi molto liquido? Mi sono spiegato male, non volevo dire un conto di deposito, volevo dire un conto ad hoc, in America si chiama. Quindi studiare qualcosa di completamente nuovo? Sì, di creare questo scatolone, che può essere una polizza, che può essere un fondo, che può essere quel che vuoi, dove se tu lasci questi soldi per un periodo superiore ai 5 o superiore ai 10 anni, ricevi uno sgravio, quindi un conto ad hoc, non un conto bancario. Il problema della politica economica, se posso dirlo con una parola, il primo problema è aiutare gli italiani a risparmiare meglio, che risparmino tanto o poco, questa è una scelta loro, per fortuna risparmiano tanto, ma bisogna aiutare a risparmiarli meglio e quindi indirizzare questo risparmio verso delle forme che per loro natura sono un titolo di merito, perché il risparmio di lungo termine lo è, perché il risparmio previdenziale lo è e tra l'altro rende anche più semplice poi per gli intermediari convogliare questi soldi verso gli investimenti. Ha avuto già modo, professor Siniscalco, di così confrontarsi con qualche attore del sistema per verificare che tipo di accoglienza potrebbe avere questo nuovo prodotto di risparmio, adesso lo definiamo ancora in maniera molto banale e semplice, così appunto in Italia? Sì, l'ho fatto sia con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Tremonti, che con la Banca d'Italia. L'accoglienza è ovviamente positiva, per quanto possa sbilanciarmi io che non sono l'attore della politica economica, però siccome è un cambiamento abbastanza strutturale, io credo che sia ragionevole metterlo all'interno di una complessiva riforma fiscale che è agli studi, quindi non mi aspetto che esca così di colpo, ma mi aspetto che entri dentro un quadro un pochettino più complessivo. Detto quello, ci stiamo lavorando, può avvenire sostanzialmente a impatto zero sulle finanze pubbliche, e ripeto, è veramente nell'interesse di tutti, nell'interesse dei cittadini che risparmiano meglio e nell'interesse della politica economica che può aiutare a convogliare queste risorse verso impieghi produttivi, che è l'altro grosso problema. Certo, ma in qualche maniera questa idea, professor Siniscalco, risponde anche alle esigenze delle famiglie italiane che continuano a manifestare questo atteggiamento molto conservativo del proprio risparmio, molta poca propensione a rischio, è un'attitudine non molto sviluppata in Italia, a meno che non ci siano dei rari casi di attrazione per esempio verso i bond greci, quando i rendimenti schizzano al 20%, in casi passati verso emissioni obbligazionali di altri stati che avevano attirato parecchio, poi lasciando non poche ferite. Ma io credo che sarebbe accolto molto favorevolmente, perché ripeto, tutti lasciamo dei risparmi sui nostri conti o sui nostri impieghi in lungo periodo, ma in strumenti a breve, e questo è l'assurdo, no? Io per esempio per primo ho mantenuto per lunghi periodi della mia vita delle cose in strumenti praticamente a vista. Questo strumento, questo conto ti consentirebbe di tirare via i soldi quando ti servono senza chiedere permesso a nessuno, senza nessuna particolare penale piuttosto che disincentivo. Semplicemente non avrai il beneficio fiscale su quanto ritiri. E quindi non c'è nulla in sé di rischioso, perché tu puoi mettere dentro questo conto i risparmi sugli identici impieghi dove li metteresti altrimenti. Quanto al fatto che le famiglie siano poco propense al rischio, io rispondo meno male, perché chi è stato attratto dal rischio, anche se erano intermediari molto sofisticati, fino al 2007 ha pagato con gli interessi. Giocare oggi su quello che si chiama l'azzardo morale di investire su paesi dissestati sperando che vengano salvati, di nuovo una decisione individuale, discutibile, ecco. Allora, 800 24 00 24, c'è un ascoltatore che forse non ha capito bene di che cosa stiamo parlando. Così si cambiano le regole in corso ai danni dei risparmiatori, al momento non abbiamo nessun cambiamento di che, c'è solo il cambiamento fiscale per i fondi comuni di investimento che partirà a partire da luglio. Poi su questo andiamo nella seconda parte di Salvadanaio tra qualche minuto, e poi ci sono molte considerazioni sul tema della previdenza complementare, e su questo argomento tra poco, anche su questo argomento, andremo con il professor Domenico Siniscalco, a tra pochissimo. L'ultima parte di Salvadanaio, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta e fare le vostre considerazioni con noi e il professor Domenico Siniscalco, presidente di Assogestioni. Peraltro, a proposito di cambiamento di regole in corso, professor Siniscalco, presidente, c'è in arrivo anche il KID, il nuovo prospetto informativo dei fondi di investimento, anche in questo caso in un'ottica di armonizzazione con le regole europee. Sì, torno indietro al cambiamento delle regole, questa è semplicemente un'agevolazione in più che aiuta a risparmiare meglio, nessuno viene penalizzato. Peraltro, siccome sono ragionamenti di lunghissimo periodo sul risparmio previdenziale, per forza che ogni cambiamento è in corso, si parla di archi di una vita intera, non c'è una partita che comincia e finisce in cui si cambia sport. È come quello delle pensioni, quello è un cantiere davvero sempre aperto. Ma questo è un qualcosa in più, è un qualcosa di meglio, voglio dire, quindi ripeto, attiene a consentire agli italiani di risparmiare meglio. Ma lo abbiamo chiarito. Riconosciuta la virtù del risparmio, costituzionalmente stabilita. Allora, magari senza entrare troppo nel dettaglio, questo KID che cos'è, presidente? Sì, guardate, ogni prodotto finanziario viene venduto con un prospetto che concettualmente è come i bugiardini delle medicine, non perché sia bugiardo, non lo sono neanche quelli di medicina, ma perché è molto complesso ed è un documento che probabilmente ben pochi leggono. Un documento più per gli avvocati che per i risparmiatori. Il KID è un'istruzione molto semplificata in cui il risparmiatore può vedere di che cosa si tratta, ma non è costretto a leggersi in caratteri di stampa microbici molte complicazioni. Semplicemente una semplificazione nel prospetto. Anche perché non è che i prospetti complicati hanno salvato dalle perdite, naturalmente. Però insomma, se leggiamo qualcosa più con dei termini più semplici, sicuramente forse ci aiuta un po' di più a fare delle scelte più consapevoli, visto che questo è l'altro grande problema. Prima di sentire, intanto lo saluto, Lionello Cadorin, collega da poche settimane, direttore di Effe, un altro mensile che si occupa appunto di tematiche legate in qualche maniera agli investimenti. Lionello, intanto buongiorno. Buongiorno Deborah. Ti faccio precedere però da Tina da Genova, se hai un minutino di pazienza sentiamo la nostra ascoltatrice. Tina, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi contattato. Mia figlia, che ha 38 anni, è entrata nel mondo del lavoro da quasi 2 anni e ovviamente avrà una pensione molto molto ridotta. Allora io pensavo di poterla aiutare facendo un investimento per lei. E vi chiedevo se c'è un, non so, cosa mi consigliate, a chi mi potrei rivolgere per questa cosa. Guarda, perché mi preoccupa un pochettino pensare a cosa sarà la sua pensione. Infatti, quando... Tina, lei, io la ringrazio perché, a parte la domanda pertinente, molto accurata, che ovviamente ha come centro il destino previdenziale di sua figlia, mette insieme sicuramente tanti aspetti che oggi sono al centro dell'attenzione generale. Si entra nel mondo del lavoro in maniera stabile molto tardi, e anche se ovviamente l'industria bancaria e l'industria finanziaria tende a sollecitare non poco, soprattutto nei confronti delle giovani platee, il tema della costituzione sin da molto presto di una forma appunto di risparmio previdenziale. Professor Siniscalco, che cosa le suggerisce la domanda di questa nostra ascoltatrice? Buongiorno. Molti brancolano nel buio e non sanno addirittura da dove partire per costruirsi un futuro previdenziale. Allora, sicuramente non posso dire compra questo, compra quello. Assolutamente no, perché, no, perché non lo so io stesso. No, ma non le chiedevamo certo questo. C'è qualche principio generale a cui vale la pena attenersi e che costituisce la base dell'educazione finanziaria. Apro e chiudo la parentesi, ahimè non la insegniamo abbastanza né a scuola né all'università, chiudo la parentesi. Primo principio, non mettere mai tutte le uova nello stesso cesto, quindi cerca in qualche modo, come tutte le famiglie italiane, di diversificare un po' immobile, un po' obbligazione, un po' azione, un po' conto corrente. Chiaramente non è facile diversificare se le somme sono ragionevoli, ma certamente se io sentissi che c'è un fantastico investimento, magari in un paese strano, in un titolo strano, che rende molto, mi tirerei sulle antenne. Quindi cerchiamo di diversificare il rischio in un mondo incerto, e questo è più incerto che mai. Dividi il rischio. Secondo principio, quello che rende tanto in genere è più rischioso, c'è una curva tra rischio e rendimento. Se propongono rendimenti mirabolanti, in genere, non voglio dire che c'è una fregatura, perché magari non c'è, ma c'è molto rischio. C'è molto rischio, certo. Come quando uno si fa un futuro previdenziale, è meglio che lo eviti, questo molto rischio, e siccome è anche un rendimento basso, che non è poi così basso, ma per fare un calcolo numerico del 3% in 20 anni ti raddoppia la ricchezza, io credo che muoversi con oculatezza, buon senso, diversificando sia fondamentale. Detto questo, ripeto, eviterei ricette miracolistiche e eviterei anche il fai da te, che molte volte sembra prudente e non consente di tenere in conto tutte queste cose. Detto questo, faccio i complimenti alla signora, perché se tu cominci a risparmiare da giovane, e 38 anni oggi è giovane, perché sì, la media si è allungata molto, metti veramente al sicuro il tuo futuro. C'è un altro tema che il caso di Tina solleva, che non è il caso di affrontare in questa sede, ma magari ne riparleremo, il tema della rete sociale che si riesce ancora a mantenere in una fase delicata come questa, probabilmente quella rete sociale che forse non riusciremo ad avere noi nei confronti dei nostri figli fra 20-30 anni, chissà. Comunque, Lionello Cadorin, buongiorno. Buongiorno. Allora, che domande ti stuzzica la presenza del presidente di Assogestioni a Salvadanaio? Come? Sì, sì, no, ti stavo chiedendo quali domande. Ma guarda, io vorrei fare una domanda, visto che nel massimo rappresentante, vorrei fare una domanda sull'industria italiana del risparmio gestito, che in Italia è una cosa molto grande e molto importante. Ora che non ci sarà più, non c'è più l'handicap fiscale e quindi neanche l'alibi, e che con il famoso passaporto europeo i fondi italiani potranno varcare le frontiere, diciamo, e circolare, essere venduti liberamente nell'Unione. Io lo chiedo questo: l'industria italiana del risparmio gestito diventerà finalmente più competitiva, o c'è il rischio, come qualche segnale ci fa pensare, che le banche, che di questa industria rappresentano la stragrande maggioranza, non abbiano più tanta voglia di investire nella loro attività di risparmio gestito? Qual è il sentiment del presidente di associazione? Lionello, grazie e buona giornata, naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo soprattutto con il tuo nuovo mensile. Presidente Siniscalco, abbiamo un minuto e mezzo di tempo per concludere. Allora, un'industria funziona come questa se tutti pedalano nella stessa direzione. Sicuramente la riforma fiscale è stata una mossa notevolissima, perché era un handicap solo italiano, una zavorra che ci portavamo sulle spalle, ed entrerà in vigore da luglio, quindi non ci aspettiamo i risultati del primo trimestre dell'anno, perché non c'era questa riforma. Detto questo, tutti devono pedalare in quella direzione: i gestori cercando di essere più competitivi, le banche mettendo il cliente al centro, la politica economica mettendo il risparmio e la sua destinazione per usi di sviluppo al centro della vicenda. Non esiste quella che in inglese si chiama la pallottola d'argento che da sola ti risolve il problema, ma è uno sforzo collettivo quello che bisogna fare. Allora, la nostra trasmissione si avvia a conclusione. Peraltro, parlando adesso della revisione sulla tassazione dei fondi, non ne abbiamo ricordato di nuovo le modalità, ma ci sarà modo sicuramente di ritornare su questo argomento a partire da luglio, quando tutto comincerà ad entrare a regime. Peraltro, Presidente, proprio in 10 secondi di tempo, mancano ancora delle misure attuative della nuova tassazione o siamo a posto, l'industria a posto? Ma io vedo i decreti che stanno rapidamente arrivando al termine. Il rapporto con l'Agenzia delle Entrate è ottimo, sia per la buona volontà dell'agenzia collaborativa che di tutta l'industria, dei nostri uffici. Sono confidente che avremo tutto a posto per il primo di luglio. Professor Siniscalco, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie Deborah, grazie a tutti. Grazie. Da Salva Danaio anche oggi termina qui, grazie a tutti per essere stati con noi. Volevo ringraziare in particolar modo un gruppo di amici americani che oggi sono venuti a seguire Salva Danaio, per cui salutiamo Alissa, Jonathan, Elizabeth e Tori, se mi ricordo tutti i nomi sì correttamente, anche Barbara, nostra amica che ce li ha portati. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roby Scaltritti in assistenza tecnica. Noi ritorniamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.